Nella parola di Dio ci sono verità sfuggenti ai nostri occhi non solo perché le leggiamo in fretta, ma anche perché sono talmente fuori dai nostri comuni concetti religiosi da non avere la capacità di influenzare la nostra attenzione. Quando poi queste verità sono prese sul serio e di conseguenza dovrebbero avere il potere di cambiare totalmente il nostro vivere religioso, allora la nostra tendenza è di fingere di non sapere ciò che Dio ci vuole comunicare, così da poter continuare a vivere serenamente la nostra bassa e insufficiente espressione di fede. La più grande colpa del credente nei confronti di un Dio talmente ricco in misericordia da avergli dato ogni ricchezza oltre misura è di vivere da povero essendo ricco, e di vivere da schiavo essendo libero. Si disprezza Dio e lo si fa bugiardo non solo negando che la vita eterna è Gesù Cristo, 1 GV 5.9.1.2, ma anche non vivendo all'altezza della chiamata, LC 10.16, un terametro 4.8, e giunto il momento, dopo 2000 anni, dalla morte e resurrezione di Gesù, di prendere veramente sul serio le immense e investigabili ricchezze che il Figlio di Dio ha elargito a tutti i credenti e vivere quella vita di chiarezza affascinante che è la sola in grado di testimoniare l'opera meravigliosa, sconvolgente e rivoluzionaria di Gesù Cristo. Infatti, prima ancora che Gesù si manifestasse quale Figlio di Dio, Luca attesta l'opera di Giovanni il Battista con queste parole: egli allora percorse tutta la regione nei dintorni del Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, che dice: ecco la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianate, e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Il C 3.36. Giovanni il Battista aveva un compito veramente unico, perché doveva non solo annunciare meno la manifestazione del Messia, cioè di Gesù Cristo, ma doveva anche invitare i credenti a raddrizzare i sentieri di Dio. Considerando seriamente quest'ultimo incarico, si rimane un poco sbigottiti. I sentieri del Signore devono essere raddrizzati o spianati, come altre versioni rendono. Com'è possibile che la volontà di Dio debba essere corretta o migliorata? Con la venuta di Gesù ci è sfuggito o ci sta sfuggendo forse qualcosa da doversi migliorare nella volontà di Dio? Esaminando come vivono i credenti, credo proprio di sì. Consideriamo quindi, in modo se non del tutto diverso, di certo profondamente diverso dal solito, l'opera di Gesù. La maggioranza dei credenti ha compreso l'opera di Cristo nei soli termini di salvezza dalla perdizione eterna. E pur trattandosi di una grandissima verità, un simile atteggiamento li porta a vivere con la mentalità dell'antico patto. La tendenza generale è di ritenere Cristo il salvatore della loro anima e quindi, di conseguenza, anche il salvatore della loro condotta quotidiana, perché tutti, per un istinto naturale, tendiamo ad adagiarci alle situazioni vecchie così da non avere la preoccupazione provocata dalle nuove. Ora, poiché il patto stretto da Yahweh Dio con il popolo di Israele precede il nuovo patto, è più comodo e meno traumatico vivere ancora con la mentalità dell'antico. Quali sono le diversità presenti nel patto nuovo stabilito da Dio con tutti gli uomini di confronto al patto sancito con il popolo di Israele? Che cosa ci è stato di tanto rivoluzionario nella venuta di Gesù al punto da raddrizzare le vie di Dio? Sono molte le cose e quelle che esporrò. Credo siano solo le più evidenti, sufficienti tuttavia a far comprendere la sconvolgente, per quanto gradita, rivoluzione apportata da Gesù. La prima e grande rivoluzione nel campo spirituale è che gli uomini, dopo la morte di Gesù, possono presentarsi direttamente davanti a Dio, senza il Nuovo Testamento intermediari umani. È risaputo da chi conosce l'Antico Patto che l'Eterno Dio avesse stabilito uomini particolari perché si presentassero alla sua presenza allo scopo di intercedere per gli altri. Vi era una casta di persone chiamati sacerdoti meno che avevano il privilegio di svolgere le funzioni religiose al posto di tutto il popolo. Questo compito era talmente invidiabile che il salmista, con un atto di santa gelosia, disse: «Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». Salmo 84.4. La dimostrazione di questo straordinario invisibile evento spirituale è stato palesemente dimostrato quando, alla morte di Gesù, la tenda del Tempio che separava il luogo santo, dove poteva sempre entrare il sacerdote, dal luogo santissimo dove vi era la presenza di Yahweh, e il sacerdote poteva entrare una volta all'anno, si squarciò in due da cima a fondo, MT 27.5. Questo evento annunzia che il credente ora ha la libertà di entrare alla presenza di Dio direttamente, senza intervento di un intermediario umano che funga da sacerdote. Da 2000 anni non vi è più una casta umana che interceda per tutti gli altri uomini, ma tutti i credenti nati di nuovo per un atto di fede consapevole in Cristo sono sacerdoti abilitati a rivolgersi direttamente alla Maestà, cioè al Dio Trino, per mezzo di Cristo, il Sommo Sacerdote, o Papa, che ha un sacerdozio che non si trasmette. EB 7.24. L'autore della lettera agli Ebrei non poteva tacere questa grande, meravigliosa e rivoluzionaria verità, e ad un certo punto della sua lettera scrive: «Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi, attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede». EB 10.1922. A colpire in questa parte della lettera è la parola libertà, perché prima della morte di Gesù nessun essere umano era libero di accostarsi ogni giorno a Dio direttamente, mentre il sommo sacerdote, meno che per la cultura cattolica romana è paragonabile al Papa, poteva essere libero di entrare direttamente alla presenza di Dio solo una volta l'anno. Libertà. Non vi è nulla di più bello della libertà, cioè di essere in grado di fare una cosa quando e come si vuole. Ed ora il credente può pregare, intercedere, offrire beni immateriali e stati d'animo a suo piacimento e senza l'intervento di un mediatore umano. Chi ha compreso questa meravigliosa rivoluzione spirituale? Non mi si dica che è una cosa risaputa. Perché se così fosse, tutto l'apparato religioso del cattolicesimo romano nella veste di sacerdoti, vescovi, cardinali e papa, che di fatto è la spudorata negazione del rivoluzionario messaggio del Vangelo, perderebbe il senso della propria esistenza e di conseguenza il proprio potere. I sacerdoti, tanto per citare una categoria, non sono forse degli intermediari tra Dio e gli uomini, cioè ministri di culto con funzioni sacrali esclusive? Se il Papa e i cardinali, i vescovi e i sacerdoti avessero capito che da 2000 anni la tenda o cortina separante il luogo santo dal luogo santissimo è stata squarciata per togliere questa categoria e dare la possibilità a tutti i credenti di entrare con libertà nel santuario, si toglierebbero l'abito talare e inviterebbero tutti i credenti a rivolgersi direttamente a Dio senza di loro. Inoltre, per i cattolici, il Papa paragonabile al sommo sacerdote per gli ebrei non sarebbe più un uomo particolare da sostituirsi, tra l'altro dopo la sua morte, ma lo sarebbe Gesù, perché lui, e solo lui, è il vero Papa che non morirà mai. Purtroppo, il cattolicesimo romano ha copiato pari pari, meno e in concreto, riesumato meno tutta l'impalcatura sacerdotale ebraica, a causa dell'assenza di una vera fede nell'opera unica e definitivamente sufficiente di Cristo Gesù. È vero che predica l'Evangelo, ma è un altro Evangelo. È vero che illumina le menti della gente quando legge la parola di Dio, ma come Israele, senza riceverne la luce per se stesso. Per usare le parole dell'Apostolo Paolo, il cattolicesimo fa professione di conoscere Dio, ma lo rinnega con le opere, essendo ripugnante e disubbidiente. Tito 1.16. Inutile nasconderlo. La fede comune spesso si isola volutamente e non vuole essere disturbata. È opportuno ricordare che Gesù, il Figlio di Dio, fu in grado di soddisfare il bisogno dell'uomo di avere un sacerdote utile quanto efficace e di compiere un sacrificio valido per il peccato.

perché ha diviso e divide tuttora popoli e gli stessi religiosi che si rifanno alla fede in Cristo. E Gesù, affrontando questo tema, categoricamente dichiara che nessuno può andare a Cristo se non è stato istruito dal Padre. Dunque, se un'anima si rivolge a Cristo è perché nell'udire la buona notizia viene sensibilizzata dalla persona dello Spirito Santo a porre fede in Lui. In tutta la parola di Dio si enfatizza l'opera di ammaestramento compiuta dallo Spirito Santo sull'uomo, dato che solo la persona dello Spirito Santo conosce le cose di Dio. 1 Corinzi 2.1.1. Perciò, dopo la resurrezione di Gesù, stiamo assistendo all'adempimento di una profezia del profeta Geremia nei confronti dei credenti, alla quale occorre dare la dovuta attenzione. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno. Dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Geremia 31:34. E, giunta l'era quando per conoscere il Dio Trino non ci è più bisogno di un intermediario umano come era fino al tempo di Gesù, ma ogni credente conosce ed è istruito direttamente da Dio stesso tramite la propria relazione personale con Cristo, nata dopo l'aver sperimentato per fede che i suoi peccati sono perdonati e dimenticati per sempre. Noi abbiamo la necessità indispensabile di ritornare alla fonte di quella verità secondo la quale solo Dio può istruire, per non vantarci di aver trasmesso direttamente all'uomo qualche verità in modo da poter testimoniare. Credo che pochi siano stati così obiettivi come Agostino, quando nel suo libro Confessioni scrisse la seguente riflessione: non mi ammaestrarono gli anziani, suggerendomi le parole con un insegnamento metodico, come poco dopo per la lettura e la scrittura, ma fui io stesso il mio maestro con intelligenza avuta da te. 8.13. Dunque, chi è stato istruito da Dio sia riconoscente, e con la pazienza e la misericordia delle quali egli stesso ha beneficiato da Dio trasmetta agli altri la luce ricevuta. Così, genitori, insegnanti, predicatori, scrittori coscienti che l'uomo non può ricevere nulla, se non gli è dato dal cielo, Giovanni 3.27, si limitino con umiltà a comunicare fedelmente ciò che hanno ricevuto da Dio, lasciando alla persona dello Spirito Santo il compito primario di istruire ogni persona. Questa è la pazienza e la libertà del cristiano. Solo prendendo coscienza che unicamente Dio istruisce il credente può evitare due grossi errori. Chi prende sul serio la verità che solo Dio istruisce gli uomini e che tutti saranno ammaestrati da Dio, non commette i tre errori più comuni in merito alla trasmissione della conoscenza, cioè l'esaltazione dell'uomo, la dipendenza da esso e l'addebito al prossimo delle proprie colpe personali. Esaltare o lodare il prossimo è talmente comune che ormai non ci facciamo più caso. Si lodano le qualità altrui, come il cantante Luciano Pavarotti, alla sua morte così altamente encomiato da tutto il mondo per le sue doti. Oppure si esalta la bellezza delle donne del cinema o le loro qualità artistiche. Si esaltano uomini virtuosi nel settore della scienza, dello spettacolo e scrittori, quasi che queste virtù fossero delle capacità da essi procedute e sviluppate. Eppure, tutti sappiamo di nascere già con certe qualità innate e che tutto procede dai piani del Creatore. Se è sbagliato lodare o esaltare le virtù del prossimo per cose terrene, quanto più lo è nel campo spirituale, perché tutti, nessun o escluso meno, sono dotati e istruiti direttamente da Dio. Quindi saggio è colui che loda Dio e lo esalta per aver donato doni e capacità agli uomini. La coscienza di questa verità porta al secondo atteggiamento assennato, dipendere da Dio e non dagli uomini, cioè ritenere ogni ammaestramento procedente da Dio e non dall'autorità spirituale terrena. A questo proposito Gesù disse ai suoi discepoli: «Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli». E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Di Matteo 23.8.10. Prese sul serio, queste parole condannano il cattolicesimo e i cattolici quando chiamano padre i sacerdoti e vescovi, ma soprattutto quando chiamano il Papa Santo Padre. Infine, comprendere di essere tutti istruiti solo da Dio comporta che, avendo compiuta un'azione di cui si è avuta convinzione in seguito a una conversazione con altri, se tale gesto dovesse successivamente rivelarsi sbagliato, non dovremo addebitare il nostro errore al prossimo perché, come sta scritto, da Dio dipendono chi erra e chi fa errare, oppure, come dice un'altra traduzione di Bara, da Lui dipendono. Giobbe 12.16. Come è libero e liberato il cuore di chi crede in questo Dio sovrano che insegna, ma permette pure l'errore. Nessun odio per nessuno, nessun rancore, nessuna amarezza verso l'amico, il fratello o il coniuge, ma solo riconoscenza verso Dio, perché retribuirà ciascuno secondo le sue opere. E per il credente ogni cosa coopera per il suo bene, se ama Dio. Ro 8.28. C. È forse una vita migliore di questa? L'opera divina di soppressione dell'intermediazione umana nell'espressione della nostra fede ha come conseguenze inevitabili che si riguardi a Gesù come il solo e unico Papa o Sommo Pontefice e che ciascuno di noi sia direttamente istruito da Dio. Inoltre, per forza di cose, vi è pure Mileri come terzo punto della sconvolgente rivoluzione di Gesù, un mutame Nuovo Testamento o anche nel culto reso al Dio Trino. Non è possibile comprendere questa verità se non si compie un passo indietro nel tempo per considerare la religione ebraica. Tra le sue sconvolgenti rivelazioni e affermazioni di Gesù, non bisogna dimenticarne una che ha il potere di dividere la storia religiosa in due, la quale fu espressa da Gesù nel Sermone sul Monte. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. In Matteo 5.17. Apparentemente questa testimonianza non ha nulla di speciale, perché, meno secondo le sue stesse parole, Gesù non è venuto per apportare un cambiamento alla legge, ma piuttosto perché la legge si è messa in pratica in conformità allo scopo per il quale è stata data. In effetti, però, le cose non stanno poi così, perché un cambiamento della legge è avvenuto, dato che oggi i seguaci di Cristo non sacrificano più animali, come facevano gli ebrei. Come interpretare le parole di Gesù? La legge ebraica, benché sia una, si divide in tre parti. Vi è la legge cerimoniale, quella civile e quella spirituale. La legge cerimoniale è quella relativa al culto, al sacerdozio, alle oblazioni, a bevande, ed è quella che Gesù abolì con la sua venuta, in quanto è ombra di realtà celesti. E i cristiani questo lo hanno capito. La legge civile è quella che riguarda i rapporti sociali. Ma più tardi gli ebrei adottarono le leggi dei paesi in cui vissero, come oggi i cristiani sono obbligati ad osservare le leggi civili nei paesi dove abitano, a meno che contrastino il volere di Dio. Infine vi è la legge spirituale, ed è quella che si trova sia evidente sia nascosta nelle altre leggi. Infatti l'ordine sociale di non maledire il sordo è che non si devono dire parole inopportune a chi non sente. E la sua applicazione spirituale è di non parlare male di qualcuno che non è presente o non può sentire. L'affermazione di Gesù di non essere venuto per abolire la legge si riferiva quindi alla legge spirituale. Infatti l'Eterno Dio dava l'ordine di osservare i comandamenti, le leggi e le prescrizioni. In questo ordine molto probabilmente vi erano compresi i tre aspetti della legge. I comandamenti costituivano la legge spirituale, le leggi avevano un rapporto diretto con la legge civile e le prescrizioni si riferivano alla legge cerimoniale. Sembra che questo aspetto della legge ebraica non sia stato proprio capito dai credenti dopo la morte e la resurrezione di Gesù, dato che il più delle volte per vivere il cristianesimo si rifanno a leggi dell'antico patto. Quando ero più giovane si impediva alle donne di portare i pantaloni perché, come sta scritto nella legge di Mosè, la donna non indosserà abiti da uomo, né l'uomo indosserà abiti da donna, perché chiunque fa tali cose è in abominio all'Eterno, il tuo Dio. DT 22.5. Nel XXI secolo sembra una cosa assurda aver imposto tempo fa certe regole, ma questo è il risultato di un principio tutt'oggi imperante nella mente dei credenti che hanno fatto proprie le leggi dell'antico patto dell'Eterno con Israele, palesando così una mancanza di conoscenza della vera volontà di Dio che li porta a uno stato di dipendenza da leggi oggi non più esistenti perché abolite da Gesù. L'ordine dell'Eterno, il quale odia la promiscuità, è che nel vestire gli uomini e le donne rivelino subito la loro caratteristica sessuale, anche perché al tempo in cui Mosè ricevette le leggi, sia gli uomini sia le donne portavano lunghe vesti, a dimostrazione che ancora oggi molti credenti sono legati alle leggi ebraiche. Riporto il contenuto della recente telefonata di un credente che mi chiedeva se fosse sbagliato imporre agli altri vestirsi con abiti di un solo tessuto, perché, come sta scritto nelle leggi di Mosè, non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di semi, né porterai veste tessuta di due diverse materie. Lev 19:19. Per quanto mi riguarda, sono convinto che queste leggi abbiano ancora oggi il loro valore non solo spirituale, ma anche pratico. Perciò, se ritengo sbagliato accoppiare bestie di specie differenti, se trovo non buono seminare un campo con due semi diversi, sarà altresì controproducente vestirsi con tessuti di diverse materie. Ma una cosa è ritenere queste leggi indicative e utili, altra è considerarne peccato l'eventuale omissione nella pratica. Occorre non dimenticare mai che il peccato è la trasgressione alla legge di Dio, e se non c'è, è legge non c'è, è neppure trasgressione. Questo è molto chiaramente espresso nella parola di Dio. Perciò è evidente che se io ritengo le leggi ebraiche, civili e cerimoniali ancora valide per me, vivo con dei sensi di colpa se li trasgredisco. Ma se con la morte e la resurrezione di Gesù valorizzo il senso spirituale di ogni legge, allora vivo come uomo libero dalla schiavitù della legge per osservarne lo spirito secondo il quale è stata data. Questo aspetto è tanto delicato da rendere molto difficile l'affrontarlo, non tanto per l'argomento in sé, ma perché non si è abituati a considerare questa grande e sconvolgente rivoluzione di Gesù, per cui molti credenti sono perché? Perché fanno un miscuglio fra l'Antico e Nuovo Patto. Sanno che con il Nuovo Patto non sono più sotto la legge, ma continuano a sforzarsi di vivere secondo la legge, e questo li porta ad avere una relazione con un complesso di regole piuttosto che con una persona, cioè Gesù Cristo. Così, quando si rendono conto di non riuscirci, si sentono condannati, sono frustrati e scoraggiati. Il mutamento prodotto dalla morte e resurrezione di Gesù nell'ambito del culto consiste proprio nell'aver liberato i fedeli dall'osservanza legalistica di regole stabilite in certi momenti, affinché possano vivere ogni giorno alla presenza di Dio secondo lo spirito di queste leggi. Dopo aver esposto le varie dottrine cristiane agli abitanti di Roma, l'apostolo Paolo inizia così la parte pratica del proprio insegnamento. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. 12:1. Ecco in che cosa consiste il culto del cristiano. Non è tanto la domenica, quando si ritrova con altri per lodare Dio. Non sono le riunioni infrasettimanali stabilite, esse altro non sono se non parte integrante di un culto meno, cioè di una espressione di lode e di ringraziamento meno, interrottamene si esprime dal giorno nel quale ci si è arresi a Dio mediante un atto di fede salvifica in Cristo. L'obbligo di esprimere il proprio servizio religioso in un locale chiamato a torto chiesa meno è terminato. Diversamente, ci è da chiedersi come potessero esprimere il loro culto i primi cristiani, essendo stati perseguitati per i primi tre secoli e conseguentemente privati un locale nel quale svolgere le funzioni. Perciò Gesù è venuto ad abolire la legge cerimoniale, perché inefficace e sorpassata in questa era di grazia. È venuto a non imporre la sua legge civile, perché per forza di cose i cristiani sono sottoposti a quella nel paese nel quale si trovano. Per il resto, il credente è condotto dalla persona dello Spirito Santo, la quale non è sottoposta a nessuna legge, men anche se mette in pratica la legge di Dio, proprio perché è santa. In conclusione, il credente che ha scelto Cristo come unica persona da adorare e pregare deve stare in guardia dal formarsi una religione alternativa a quella ebraica, come ha fatto il cattolicesimo romano, e realizzare una relazione personale con il suo Salvatore, il vivente, l'unico Papa al quale si deve essere sottomesso. Il nuovo patto non è una nuova religione, ma una nuova relazione con il Creatore Gesù Cristo. Molto probabilmente l'aspetto più grande nella sconvolgente rivoluzione prodotta da Gesù nel campo religioso consiste nel vivere da perdonati. Anche questa verità deve essere vista nel suo contesto storico per poterne apprezzare tutto il suo valore. Come è stato detto, la religione ha permeato la vita dell'uomo fino dai suoi oscuri primordi e nessuno può capire l'umanità senza capirne il diverso credo. Fede che di volta in volta è ingenua, nobile, rozza o raffinata, crudele o soffusa da un'atmosfera di dolcezza e di amore, che conferma il mondo o lo nega, introversa o universalistica e missionaria, superficiale o profonda. Però, in questa variegata espressione, la religione ha una caratteristica di base comune a tutte le fedi, la consapevolezza di trovarsi davanti ad un assoluto perfetto e più grande dell'uomo, oltre a quella di essere indegni e mancanti di fronte alla santità della divinità. L'essere consapevoli di indegnità produce nella coscienza del religioso un senso di colpa, oltre a un bisogno di toglierla, e, perciò, di sentirsi perdonato. È vero che l'espressione religiosa aiuta a sollevare la coscienza dai sensi di colpevolezza, ma non produce mai la certezza di arrivare ad un completo perdono da parte della divinità alla quale ci si rivolge. Anche la religione ebraica, la quale essendo rivelata si distingue da tutte le altre religioni, meno non dava al credente piena coscienza dell'avvenuto perdono dei propri peccati. I riti cultuali della quale era impregnata lo dimostravano. Infatti, trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di varie abluzioni e di ordinamenti carnali, ebi 9.10. Questi doni e i sacrifici offerti non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino. Eb. 9.9. E per questo ogni giorno si offriva sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Eb. 7.7. Fino alla resurrezione di Gesù, il credente nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, appressandosi a Dio, si comportava come il cattolico romano d'oggi. Chiedeva del continuo pietà per le sue trasgressioni e di togliere le colpe. Così si espresse Davide quando, dopo un peccato d'adulterio, commise anche un omicidio con malignità. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. SL 51.1. Per il credente dell'antico patto, i peccati erano un costante peso. A volte si cercano nel cristianesimo delle ragioni per verificarne l'unicità, e benché ve ne siano tante. Una, di carattere soteriologico, non ha uguali nella storia delle religioni. Si tratta del rendere il credente capace di vivere da perdonantico testamento. Vedremo, nel corso delle nostre riflessioni, che vivere da perdonati è impossibile per dei religiosi quali siamo, al punto che perfino coloro che realizzano una nuova nascita e posseggono lo Spirito Santo, possono ancora vivere con la relazione che avevano i credenti nell'antico patto. Se ne dà dimostrazione quando si cantano inni o si formulano preghiere contenenti le parole del Salmo 51. Le parole scritte dal re Davide sono le seguenti. Purificami con issopo, e sarò puro. Lavami, e sarò più bianco della neve. Distogli lo sguardo dai miei peccati. E cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. SL 51.712. Esprimere. Queste parole dopo la resurrezione di Cristo significa disonorare l'opera di Cristo. Significa ritenere nullo il nuovo patto stabilito da Dio con coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo. Chiedere oggi a Dio di ricreare un cuore puro significa non possederlo e, di conseguenza, contraddire il fatto che nel credente sia stata infusa la nuova natura di Dio. Chiedere oggi a Dio di non essere respinto dalla sua presenza equivale a discreditare la promessa di Gesù di essere sempre con chi ha posto fede in Lui. Chiedere ancora oggi a Dio di non togliere lo Spirito Santo significa fare bugiardo Gesù, perché ha detto che avrebbe abitato per sempre nel credente. Queste considerazioni non sono pignolerie, perché chi non vive da perdonato continua a vivere come il credente prima della resurrezione di Cristo. Quando nelle funzioni religiose cattoliche e anche protestanti viene invocato lo Spirito Santo perché scenda nel credente, la domanda da porsi è: credono questi credenti di aver ricevuto lo Spirito Santo? Se ci credono, perché invocarlo ancora? E se chiedono ancora il perdono dei loro peccati, credono questi credenti di essere stati perdonati? Se ci credono, perché invocare ancora quello che possiedono? Un credente cosciente di essere perdonato, cosciente di aver ricevuto lo Spirito Santo, consapevole di appartenere per sempre a Cristo, vivrà con un continua lode a Cristo e un costante ringraziamento per quello che ha ricevuto per grazia, cioè senza merito. La forma religiosa, qualsiasi sia, affascina, non carce, è che dire. Chiedere a Dio di essere perdonati o di esprimere la propria indigenza appare di gran lunga più spirituale che ringraziarlo per essere già stato perdonato e esserne appagato. Eppure, una vera fede in Cristo si dimostra soprattutto quando si passa dalla richiesta alla lode. Una ragazza che si professava credente e chiedeva di poter ricevere il battesimo cristiano, alla quale chiesi se riteneva i suoi peccati già perdonati, mi rispose di sì. Seppur sapessi che da anni frequentava l'ambiente evangelico, avevo il dubbio che avesse imparato il linguaggio cristiano e sapesse dare le risposte giuste, ma senza comprendere il senso di ciò che diceva. Infatti, nel corso della conversazione le domandai cosa avrebbe fatto commettendo dei peccati in futuro. E lei, senza esitazione, mi rispose che ne avrebbe richiesto il perdono. Le chiesi allora come faceva a conciliare il fatto che Gesù ha perdonato tutti i peccati, cioè quelli passati, presenti e futuri, con il dover chiedere ancora perdono per le sue colpe. Mi guardò sorpresa e si rese conto di aver ricevuto il messaggio evangelico solo a livello intellettuale, ma di non credere ancora concretamente che Gesù fosse realmente morto per tutti i peccati, dato che aveva il bisogno di chiedere ancora perdono. Vivere da perdonati significa avere la certezza di non dover più chiedere perdono. Una volta presa coscienza di aver trasgredito la legge di Dio, però, è sufficiente la confessione del proprio errore e ringraziare Dio per mezzo di Gesù Cristo del perdono già ottenuto. Vivere da perdonati significa essere felice ogni giorno e ogni istante della vita. Significa godere psicologicamente di una pace interiore che sorpassa ogni intelligenza anche nel momento dell'errore. Significa vivere senza quei pesi dovuti ai doveri imposti dalla religione. Significa essere sciolti dai legami della legge per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Irm 8.21. Nessuno può vivere da perdonato senza aver veramente sperimentato Gesù come proprio personale Salvatore e Signore. Lo dimostra il fatto che perfino coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo non sempre realizzano nella pratica un completo perdono da parte di Dio. La nostra inclinazione religiosa e peccatrice, con violenza, ci sprona a rifiutare il completo perdono di Dio. E solo con un atto di volontà, sostenuto dalla potenza della persona dello Spirito Santo, è possibile vivere da perdonati. Perdonato, questa è la parola magica meno, se così possiamo esprimerci, meno, in grado di rivoluzionare totalmente la vita di una persona. Chi è stato conquistato dal perdono è in grado di conquistare il mondo e il prossimo. L'obiezione più comune posta a chi insegna che si è perdonati una volta per tutte e non occorre più chiedere perdono ma solo confessare i propri peccati è dire che allora uno può fare quello che vuole, perché, tanto, si è perdonati. Chi parla in questo modo dimostra di non aver capito nulla, ma proprio nulla, della grazia di Dio e della potenza del suo amore. E, come dire, che io sto precipitando giù per un burrone dove troverei per certo la morte, e, nell'atto di salvarmi a morire nel piombare giù, è invece un mio acerrimo nemico, insopportabile e disgustoso. Come mi comporterei nei suoi confronti? Che reazione avrei con la sua famiglia? Ne approfitterei per fare del male? Oppure, grato e riconoscente per ciò che ha fatto, sfrutterei ogni possibilità per dimostrare la mia riconoscenza? Va da sé che la reazione più comune, normale, umana, logica, saggia e doverosa stia nel ricompensare il sacrificio del mio nemico con del bene. Se questo è l'atteggiamento umano, è normale, per ciò che riguarda questa vita, cosa dire di Gesù, un tempo mio acerrimo nemico? Disgustoso con le sue prediche, insopportabile nel suo volere, il quale senza chiedermi nulla in cambio e senza porre delle condizioni, è morto sulla croce per darmi un presente e un futuro eterno? Felice, sereno, con me stesso, con gli altri e con Dio? Ripagherei il suo atto di amore con una vita che la offenderebbe? Ricambierei forse il suo sacrificio con l'odiare il suo regno e coloro che gli appartengono? Assolutamente no. Infatti, leggendo la parola di Dio nel modo giusto, cogliamo l'esortazione meno e non l'ordine, perché non sarebbe più amore meno di rispondere all'amore di Dio con altro. Simile atto di amore. Un esempio di questo principio cristiano lo troviamo nella lettera che Paolo scrive ai Romani. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. RM 12:1. L'Apostolo Paolo, nell'invitare i Romani a offrire la propria vita a Dio, non fa appello ad un dovere, ma alla presa di coscienza di essere stati oggetti della misericordia di Dio, il che vuol dire aver preso atto di essere stati eternamente perduti e di dovere a Cristo l'aver tolto una volta per sempre la ragione della nostra condanna, cioè il peccato. A molti sfugge che la gratitudine nei confronti di Dio è l'anima di ogni parola biblica e l'atteggiamento mediante il quale si è accettevoli a Dio. Così si esprime l'autore della lettera agli Ebrei. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore. Eb 12:28. Senza gratitudine non vi è un servizio accettevole. Vivere da perdonati produce gioia e libertà mentre si compie la volontà di Dio, che la parola di Cristo chiama la legge della libertà. Giacomo, il fratellastro di Gesù, è conosciuto come l'autore di una lettera dove si fa menzione della necessità di compiere delle opere perché la fede sia completa. Ma, in verità, in tutta la missiva egli mette enfasi sulla necessità di operare e queste sono le sue parole. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso e poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole ma un facitore dell'opera, costui sarà beato nel suo operare. DC 1:22-25. Il cristianesimo, nella sua essenza, è una vita che va vissuta, e Giacomo, nell'usare il termine uditori, ha usato un termine greco riferito a coloro che andavano assiduamente ad ascoltare le lezioni, senza mai però diventare dei discepoli. Se uniamo a questa verità la necessità di esaminare attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, possiamo renderci conto del fallimento della vita cristiana di tanti credenti. L'espressione esaminare attentamente deriva da una parola greca dal senso di scrutare in qualche cosa, cioè come Pietro e Maria scrutarono dentro alla tomba, GV 20:5-11, o come gli angeli scrutano dentro il contenuto del Vangelo, 1 Pt 1:12. Ci è quindi qualcosa di importante da vedere nella legge, e chi guarda desidera scorgerla anche se è difficile arrivare a vedere e ad afferrare subito di che cosa si tratti. Inoltre, la legge della libertà non è una qualsiasi legge, perché essa è definita la legge perfetta. In cosa consiste questa legge? perfetta e di libertà. Come può una legge rendere liberi quando per sua natura impone all'uomo l'ubbidienza e la sottomissione? Come può essere perfetta la legge di Dio quando Gesù è venuto per abolire certi riti religiosi perché erano solo ombra di futuri beni? Ecco dunque che la legge di libertà abilita gli uomini a rendere servizio a Cristo in segno della loro completa riconoscenza nei suoi confronti e spogli della cappa del peso del peccato passato, presente e futuro. Dio ha eliminato una volta per sempre il peccato, non volendo più sentirne parlare se non quando, avendolo commesso, lo si confessa. Dopo di ciò, nessun peso, nessun nostalgico dolore o rito religioso. Non è forse questo quello sta scritto nella lettera agli Ebrei, virgolette, punto, punto. Deposto ogni peso, e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Non viveva forse Paolo con la consapevolezza di non aver nessuna colpa? 1 Co 4.4. Chi non ha questa libertà? Disonora Dio e la sua libertà. Ti ordino di cantare, urlava il personaggio principale del cartone animato all'uccellino che era in gabbia. Ma l'uccellino era troppo triste per cantare. Così come possono cantare e essere felici gli uomini se sono nella gabbia di una visione ridotta del cristianesimo o del peccato che ancora condiziona la loro libertà in Cristo? Occorre superare alcune immagini della fede cristiana appartenenti alla tradizione per vivere da perdonati. Immagini che portano il credente ad essere ancora schiavo di una legge mosaica e di comportamenti provenienti dalla religione cattolica romana. Un esempio abbastanza evidente riguarda quella definita da Paolo come la cena del Signore, ma che per quanto concerne molte comunità si potrebbe chiamare la messa evangelica. Non occorre spendere molte parole per spiegare in che cosa consista la messa cattolica romana, è sufficiente ricordare che si tratta di un ritrovo di persone religiose nel quale viene rinnovato il sacrificio di Cristo, e nel corso del quale il fedele chiede del continuo pietà e perdono per i propri peccati. Purtroppo, anche se coloro che hanno posto fede in Cristo non credono di rinnovarne il sacrificio mediante la cena del Signore, ma solo di ricordarlo, purtroppo occorre ripeterlo. Nel culto chiedono ancora perdono dei loro peccati. La contraddizione di questi credenti sta proprio nel fatto che si ritrovano per ringraziare Dio e Gesù Cristo per aver ricevuto un perdono totale e definitivo dei loro peccati, ma poi continuano a chiedere perdono per quello che hanno fatto e per quello che sono, cioè persone inclinate a peccare. Vivere da perdonati significa fare della propria esistenza un culto, cioè una continua offerta di ringraziamento, e ritrovarsi solo per ringraziare, lodare e adorare Dio. Questo è il vero culto della domenica. Invece i figli di Dio, riunendosi per ricordare la morte e la resurrezione di Cristo, fanno preghiere di intercessione o di confessione di peccati, usando spesse volte parole che si trovano nel libro dei Salmi e per nulla attinenti alla sconvolgente rivoluzione di Gesù. Fanno predicazioni di qualsiasi soggetto, canti di invocazione, annunci di vario genere e altro, mentre il solo e unico tema deve essere la lode e l'adorazione. Quando si è a un matrimonio non è il momento di intonare canti funebri. Perché questo errore? Perché avendo stabilito il giorno della domenica per la celebrazione più importante, come i cattolici, i figli di Dio fanno e dicono di tutto in quella riunione. Verrà il momento nel quale i redenti capiranno il loro errore e dedicheranno un tempo solo per adorare, ringraziare e lodare Gesù con il pane e il vino. Un tempo nel quale realizzeranno un culto da perdonati. Stabilito questo, tutti gli altri incontri saranno dedicati allo studio, alla edificazione e evangelizzazione. Una vita da perdonati può essere riassunta in ciò che è scritto nel libro dei Proverbi. Tutti i giorni dell'indigente sono cattivi, ma per un cuore contento è sempre festa. 15.15. E un cuore contento che può produrre allegria o una continua festa, e non viceversa. Infatti, sempre il libro dei Proverbi dice: anche ridendo il cuore può essere nell'afflizione, e la gioia stessa può finire nel dolore. PR 14.13. La bombola d'ossigeno per un mondo morente, la vera risposta alla profonda tristezza mortale che abita nel cuore dell'uomo circondato da tante ricchezze terrene, consiste solamente nell'essere cosciente che i suoi peccati sono stati per sempre tolti da Gesù Cristo sulla croce, di presentarsi al Dio Trino per riconoscersi peccatore perduto e accettare tale perdono. Di conseguenza, egli non avrà altri intermediari per pregare Dio che Gesù Cristo, riterrà ogni buona rivelazione da Dio e offrirà in ogni istante della propria vita a Cristo tutto il suo essere, anima, corpo, spirito, perché si renderà conto di essere benedetto. Che vita meravigliosa essere perdonati e vivere come tali! Il bello è che non dobbiamo aspettare di giungere in fondo alla strada prima di godere ciò che vi si trova, perché è ora in questa vita terrena che inizia la giusta, meravigliosa, insondabile e felice relazione con il Dio Trino. E dato che la vera felicità è una pianta rara, occorre ricordare che per essere felici non serve avere quello che si ama o si desidera, ma basta amare quello che Dio ci ha concesso e ci concede ogni giorno. Vivere da perdonati, non vi è religione che offra tale prospettiva, non vi è nulla che possa pagare una simile esistenza. Il principale compito dei cristiani del XXI secolo non è aggiungere nuove nozioni cristiane o nuove rivelazioni, ma è scoprire ciò che Dio ha già fatto, prenderlo sul serio, lasciare che la parola di Dio formi i loro pensieri, condizioni il loro cammino e il loro parlare in modo tale che tutto il mondo religioso, come quello incredulo, li vedano nella loro realtà di persone diverse, di una diversità che non rientra in quella umana. Sapere perdonare sul serio perché si è stati perdonati, non lamentarsi ed essere felici, perché in Cristo si ha ogni cosa necessaria, offrire una vita di ringraziamento nelle situazioni normali come nelle più disperate, perché si ha un cuore riconoscente, avere sempre propositi di bene per il prossimo anche quando con verità e amore lo si riprende, sono proponimenti e comportamenti che procedono solo da Dio. E questo il mondo lo comprende. Se la sconvolgente rivoluzione di Gesù Cristo non trasforma la mia e la tua vita in tutti i settori, abbiamo fallito lo scopo per cui Gesù Cristo è morto e risorto. E non vi è fallimento più grande. Perché insistere tanto sulla necessità di vivere da perdonati? Perché, come ha detto lo scrittore cristiano cinese Watchman Nee, il progresso cristiano non consiste nel raggiungere un modello di riferimento astratto o di spingersi verso un traguardo lontano. Consiste nel vedere quali siano i modelli di riferimento di Dio. Il progresso spirituale avviene quando si scopre ciò che si è davvero, non quando si cerca di diventare ciò che si spera di essere, perché quel traguardo non sarà mai raggiunto, anche se si lotta con convincimento di farlo. Moriamo quando vediamo che siamo morti. Risuscitiamo quando vediamo che siamo risorti. Diventiamo santi quando vediamo che siamo santi. Vedere il fatto compiuto è fondamentale per imboccare il cammino che dà consapevolezza del fatto stesso. La sola possibilità di avere un progresso spirituale è nella scoperta della verità come Dio la vede. Se scopriamo questo, la nostra vita cristiana viene rivoluzionata, perché anche se molti cristiani affermano che è sbagliato combattere e affaticarsi per le cose celesti, comunque lo fanno. Hanno imparato a considerare le cose del cielo come qualcosa da raggiungere, perciò per loro il cristianesimo è uno sforzo. Cercano di essere quello che non sono e di fare quello che non possono fare. Combattono per non amare il mondo perché in realtà nel cuore lo amano. Si sforzano di essere umili perché nel cuore sono sicuri di sé. Che cosa deve fare quest'uomo? Casa editrice. E 1 ottobre 2005, pagina 147-151. In definitiva, il credente che vive in questo modo è colui che, non realizzando una vita da perdonato, si sforza di piacere a Dio come i credenti prima che Gesù morisse e risuscitasse. E, come nel matrimonio, il problema non è essere marito e moglie, ma come si dovrebbe essere marito e moglie. Non si deve amare per essere mariti e non si deve essere sottomessi per essere mogli, ma è perché si è mariti che si ama e si è sottomessi perché si è mogli. Il punto centrale non è fare per essere, ma fare in quanto si è. Così si vive da perdonati perché lo si è già, senza diventarlo ubbidendo. La legge ci è stata data perché arrivassimo alla pienezza dei tempi, nei quali il credente non guarda avanti per ottenere, ma si volge indietro per godere ciò che già abbondantemente possiede. Questa è la differenza sostanziale tra il credente dell'antico patto e il nuovo. Non a caso le ultime parole dell'apostolo Pietro furono: crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. 2 Pt 3 e 18. E crescere nella conoscenza di Cristo non significa altro che conoscere la sua sconvolgente rivoluzione. Aprile 2008. Ellero.